Libro ottavo. Le statue e i quadri. Capitolo primo. Osvaldo, dopo la giornata che aveva passato, non poteva chiudere occhio nella notte. Non era stato mai così vicino a sacrificare tutto a Corinna. Non voleva neppure domandarle il suo segreto, o almeno, prima di saperlo, voleva prendere l'impegno solenne di consacrarle la sua vita. Per alcune ore pareva che fosse lontana dal suo spirito ogni incertezza e gli si compiaceva perfino di comporre nella sua testa la lettera che avrebbe scritto il giorno seguente e che avrebbe deciso della sua sorte. Ma questa fiducia nella sua felicità, questa calma nella sua risoluzione non furono di lunga durata. Ben presto i suoi pensieri lo ricondussero verso il passato. Egli si rammentò di aver amato assai meno, è vero, di quanto amava Corinna, cui non poteva essere paragonato l'oggetto della sua prima scelta, ma si ricordò, in sostanza, che questo sentimento l'aveva trascinato ad azioni inconsiderate, ad azioni che avevano trafitto il cuore di suo padre. «Ah, chissà!» esclamò, «che egli non temesse egualmente adesso che suo figlio ponesse in oblio la sua patria e i suoi doveri verso di essa. Tu!» soggiunse, indirizzandosi al ritratto di suo padre. «Tu, il miglior amico mio, che non avrà mai più l'uguale sulla terra, ah, non puoi farmi sentire altrimenti la tua voce. Insegnami, insegnami, nonostante col tuo sguardo muto, così potente ancora sulla mia anima. Insegnami ciò che debba fare tuo figlio per darti in cielo qualche contentezza. Non ti scordare, però, di quel bisogno di felicità che consuma i mortali. Sii indulgente nel tuo celeste soggiorno come lo eri sulla terra. Diventerò migliore se sono per qualche tempo felice, se vivo con questa angelica creatura, se ho l'onore di salvare, di proteggere una tale donna. Salvarla?» egli soggiunse tutto a un tratto. «E da che? Da una vita che le piace, da una vita che le frutta omaggi, applausi, indipendenza?» Questa riflessione che aveva fatto egli stesso lo spaventò, appunto, come se fosse stata una ispirazione di suo padre. Osvaldo passeggiava per la sua stanza con crudele agitazione, soffermandosi qualche volta per ammirare la luna d'Italia così dolce e così bella. L'aspetto della natura insegna alla rassegnazione, ma non ha nessun potere sull'incertezza. Così si fece giorno in questa situazione e quando il conte d'Erfeuil e il signor Egermond entrarono da lui, si inquietarono a cagione della sua salute, tanto l'avevano cambiato le perplessità della notte. Il conte d'Erfeuil fu il primo a rompere il silenzio. «Occorre convenire», egli disse, «che lo spettacolo di ieri fu un incanto. Corinna è ammirevole. Io perdevo la metà delle sue parole, ma le indovinavo tutte dai suoi accenti e dal suo volto. Oh, che disgrazia che possegga questi talenti una persona ricca. Se ella fosse povera, libera com'è, potrebbe montare sul teatro e un'attrice come lei sarebbe la gloria dell'Italia». Tale discorso produsse in Osvaldo dolorosa impressione e non sapeva tuttavia in qual modo poterla esternare, poiché il conte Erfeuil aveva questo di particolare, cioè che non si poteva offendere di quel che diceva, anche quando risentiva del dispiacere. Il signor Egermond lodò Corinna nei termini più convenevoli e più lusinghieri. Osvaldo gli rispose in inglese per non esporre il discorso relativo a Corinna agli elogi fastidiosi del conte d'Erfeuil. «Io sono di troppo, per quanto mi pare», disse allora il conte d'Erfeuil. «Quindi me ne vado da Corinna e la gradirà molto di sentire le mie osservazioni sul divertimento di ieri sera. Ho da darle qualche consiglio che riguarda certe minutezze, ma le minutezze costituiscono l'insieme ed ella è per vero dire donna tanto meravigliosa che nulla bisogna trascurare per farla giungere alla perfezione. E poi», soggiunse parlando nell'orecchio a Lord Nelville, «io voglio confortarla a recitare più spesso le tragedie. È questo un mezzo sicuro per farsi sposare da qualche forestiero di distinzione che può passare per queste parti. Voi ed io, mio caro Osvaldo, non avremo mai tale idea. Siamo troppo assuefatti alle donne vezzose perché non ci spingano a fare una pazzia. Ma un principe tedesco, un grande di Spagna, chissà. A queste parole si alzò Osvaldo fuori di sé e non si può sapere che sarebbe accaduto se il conte d'Erfel si fosse avvisato dei suoi movimenti. Ma egli era rimasto così soddisfatto della sua ultima riflessione che in quel mentre se n'era andato correndo in punta di piedi senza neppure dubitare di aver offeso Lord Nelvil. Se se ne fosse accorto, benché egli lo amasse quanto poteva amare, sarebbe sicuramente rimasto. Il valore brillante del conte d'Erfel contribuiva anche più del suo amor proprio a illuderlo in proposito dei suoi difetti. Siccome egli aveva moltissima delicatezza in tutto ciò che concerneva l'onore, così non si immaginava neppure che potesse mancarvi mai in fatto di sensibilità. Credendosi a buon diritto, amabile e bravo, si applaudiva di quanto gli era toccato in sorte e si credeva che non vi potesse essere cosa di miglior pregio nella vita che se stesso. Non era sfuggito frattanto al signor Egermont alcuno dei sentimenti che agitavano Osvaldo, e quando se ne fu andato il conte d'Erfel gli disse: «Mio caro Osvaldo, io parto, vado a Napoli». «E perché così presto?» riprese Lord Nelvil. «Perché qui non c'è buon'aria per me», continuò il signor Egermont. «Io ho 50 anni e nonostante non sono sicuro di diventare pazzo per Corinna». «E se voi lo diventaste», interruppe Osvaldo, «che cosa ne seguirebbe?» «Oh, una tale donna non è fatta per vivere nel paese di Galles», riprese il signor Egermont. «Credetemelo pure, mio caro Osvaldo, non sono buone per l'Inghilterra che le inglesi. Non tocca a me il darvi consigli e io non ho bisogno di assicurarvi che non dirò una parola di quanto veduto, ma per quanto sia amabile Corinna, io la penso come Thomas Walpole, che si fa egli di lei a casa». Per noi la casa è tutto, voi lo sapete, è tutto, almeno per le donne. Vi figurate voi la vostra bella italiana che rimane sola mentre sarete a caccia e andrete al Parlamento e che vi lascia alle frutta per andare a preparare il tè quando voi uscirete da tavola? Ah, caro Osvaldo, le nostre donne hanno delle virtù domestiche che non troverete in nessun altro paese. Gli uomini in Italia non hanno da fare altro che piacere alle donne. Quanto più dunque esse sono amabili, tanto meglio è per loro. Ma nel nostro paese, dove gli uomini sono in una carriera attiva, occorre che le donne vivano nell'oscurità e sarebbe un peccato condannarvi Corinna. Io la vedrei volentieri sul trono d'Inghilterra, ma non sotto il mio umile tetto. Milord, io ho conosciuto la vostra rispettabile madre, che è stata pianta tanto dal vostro genitore. Ella era persona affatto somigliante alla mia giovane cugina. Io vorrei che mia moglie fosse su quest'andare, se fossi ancora nell'età di scegliere e di essere amato. Addio, mio caro amico, non siate scontento di quanto vi ho detto, perché nessuno più di me ammira Corinna e perché forse, nella vostra età, non sarei capace di rinunciare alla speranza di piacerle. Nel terminare queste parole, prese la mano di Nelvil, la strinse cordialmente e se ne andò, senza che Osvaldo gli rispondesse parola. Ma il signor Egermont comprese la causa del suo silenzio e, soddisfatto che Osvaldo avesse corrisposto al suo stringimento di mani, partì impaziente egli stesso di terminare un discorso che gli faceva pena. Di tutto ciò che aveva detto, una sola parola aveva colpito il cuore di Osvaldo, la rimembranza, cioè, di sua madre, e l'attaccamento profondo che suo padre aveva avuto per lei. Egli l'aveva perduta quando non aveva ancora compiuto i 14 anni, ma si rammentava con profondo rispetto delle sue virtù e del carattere timido e riservato della medesima. «Oh, insensato che io sono!» esclamò quando si vide solo. «Io voglio sapere qual è la sposa che mi destinava mio padre e non lo so forse quando posso rammemorarmi l'immagine di mia madre che ho tanto amato? Che voglio io dunque di più? E perché ingannare me medesimo facendo vista di ignorare quel che penserebbe adesso se potessi tuttora consigliarmi seco?» Era però cosa orribile per Osvaldo il ritornare a Corinna dopo quanto era accaduto il giorno dinanzi senza dirle nulla che confermasse i sentimenti che le aveva testati. La sua agitazione, la sua pena divennero così gagliarde che gli produssero un accidente di cui si credeva guarito perfettamente. Un vaso cicatrizzato nel suo petto si ruppe. Mentre che la sua gente spaventata chiamava soccorso da tutte le bande, egli desiderava in segreto che la morte terminasse i suoi tormenti. Oh, se io potessi morire, diceva tra sé, dopo che ella mi avesse chiamato il suo Romeo. E lacrime gli scorrevano dagli occhi. Erano le prime dopo la morte di suo padre, che fossero spremute da diverso dolore. Egli scrisse a Corinna l'accidente che lo riteneva in casa, e alcune espressioni malinconiche terminavano la sua lettera. Corinna aveva cominciato quello stesso giorno con presentimenti ben fallaci. Ella godeva dell'impressione che aveva prodotto in Osvaldo e, credendosi amata, era felice giacché non sapeva chiaramente abbastanza ciò che desiderasse. Mille circostanze facevano che l'idea di sposare Lord Nelvil fosse mescolata per lei di molto timore, e siccome era persona più preoccupata che avveduta, dominata dal presente, ma poco curante dell'avvenire, così quel giorno che doveva costarle tante pene si era levato per lei come il giorno più puro e più sereno della sua vita. Nel ricevere il biglietto di Osvaldo, crudele turbamento si impossessò della sua anima. Ella suppose che fosse nel maggiore pericolo e partì nell'istante a piedi, attraversando il corso nell'ora in cui tutti sono a passeggiare, ed entrando in casa di Osvaldo, veduta quasi da tutta Roma. Ella non aveva avuto tempo di fare la minima riflessione e la sua corsa era stata così rapida che, giunta nella camera di Osvaldo, non poteva più respirare né articolare parola. Lord Nelvil comprese tutto ciò a cui si era esposta per vederlo, ed esagerando le conseguenze di quest'azione, che in Inghilterra avrebbero denigrato per intero la reputazione di una donna, e a più forte ragione quella di una donna non maritata, si sentì preso dalla generosità, dall'amore e dalla riconoscenza, e alzandosi, per quanto egli fosse debole, strinse Corinna al suo seno ed esclamò: «Cara, cara amica, no, io non ti abbandonerò certo quando il tuo affetto per me ti compromise. Quando io debbo riparare...» Corinna conobbe il suo pensiero, interrompendolo subito nel disimpegnarsi dalle sue braccia. Ella gli disse, dopo essersi informata del suo stato che era migliore: «Oh no, voi vi ingannate, milord. Venendo da voi nulla ho fatto di più di quello che avrebbe fatto la maggior parte delle donne di Roma se fossero state nelle mie circostanze. Ho saputo che eravate malato. Qui voi siete forestiero, non conoscete altri che me. Toccava dunque a me avere cura di voi. Le convenienze che sono state stabilite meritano tutto il rispetto quando esigono solamente il proprio sacrificio, ma non debbono esse cedere ai sentimenti veri e profondi che fa nascere il pericolo, il dolore di un amico. Quale sarebbe dunque la sorte di una donna se queste medesime convenienze sociali, mentre permettono di amare, le proibissero soltanto il movimento irresistibile che fa volare in soccorso di chi si ama? Ma io vi ripeto, milord, non abbiate paura che io mi sia compromessa col venire da voi, e per la mia età e per i miei talenti io godo in Roma la libertà di una donna maritata. Non celo ai miei amici che sono venuta a farvi visita. Non so se essi mi biasimino, che io vi ami, ma sicuramente non mi biasimeranno di essermi consacrata a voi quando vi amo». Nell'udire tali parole, così naturali e sincere, Osvaldo provò un confuso miscuglio di diverse impressioni. Egli era commosso per la delicatezza della risposta di Corinna, ma era quasi indispettito che quel che aveva immaginato sulle prime non fosse vero. Avrebbe desiderato che ella avesse commesso per lui una mancanza imperdonabile, secondo il mondo, affinché quella stessa mancanza, addossandogli il dovere di sposarla, terminasse tutte le sue incertezze. Egli pensava di malumore alla libertà dei costumi italiani che prolungavano il suo affanno, lasciandogli molto di felicità senza imporgli nessun legame. Avrebbe voluto che l'onore gli comandasse quel che desiderava. Siffatti dolorosi pensieri gli cagionarono di nuovo pericolosi accidenti. Corinna, in mezzo alla più orribile inquietudine, seppe prodigalizzargli delle cure piene di dolcezza e di incanto. Sulla sera pareva Osvaldo più oppresso e Corinna, in ginocchio accanto al suo letto, gli sosteneva la testa tra le sue braccia, sebbene ella stessa fosse molto più commossa di lui. Egli la mirava sovente con l'aria della felicità in mezzo ai suoi patimenti. Corinna, le disse a voce bassa, leggetemi in quella raccolta dove sono scritti i pensieri di mio padre e le sue riflessioni sulla morte. Non vi immaginate però, soggiunse nell'osservare lo spavento di Corinna, che io me ne creda minacciato. Ma io non sono malato una volta senza che non rilegga quelle consolazioni che mi sembra ancora di sentire dalla sua bocca. E poi io voglio, cara amica, farvi in tale modo conoscere che uomo era mio padre. Voi comprenderete meglio la mia afflizione e il suo impero sopra di me e tutto ciò che un giorno voglio confidarvi. Corinna prese questa raccolta da cui Osvaldo non si separava già mai e con voce tremante gliene lesse alcune pagine. Qui, anziché leggere il testo del romanzo, preferiamo leggere la nota in maniera che si comprenda bene da dove Madame de Staël ha attinto il materiale che mette in bocca al padre di Lord Nelville. La nota dice così. Io, cioè Madame de Staël, l'autrice, mi sono permessa di prendere qui in prestito alcuni passi del discorso sulla morte che si trova nel corso di morale religiosa del signor Necker, cioè suo padre, il padre di Madame de Staël. Io ardisco di affermare, continua Madame de Staël, che il corso di morale religiosa è la più eloquente opera di mio padre. Nessuno dei ministri di Stato, io credo, aveva composto prima di lui un'opera tale. Io dirò, senza temere che si attribuisca la mia opinione al mio affetto, che tra gli scritti religiosi questo libro è uno dei primi che consolino l'essere sensibile e interessino gli spiriti che riflettono sulle grandi questioni che l'animo e il pensiero agitano continuamente in noi stessi. E queste sono parole che Madame de Staël rivolge all'opera di suo padre, che lei riteneva un grande educatore e un grande politico. Riprendiamo il romanzo. La sensibilità di Osvaldo e di Corinna aveva interrotto spesse volte questa lettura. Finalmente furono costretti a sospenderla. Corinna temeva per Osvaldo dell'abbondanza del suo pianto e l'era abbattuta per lo stato in cui lo vedeva e non si accorgeva che la medesima era turbata quanto lui. Sì, le disse Osvaldo, stendendole la mano. Sì, cara amica del mio cuore, le tue lacrime si sono confuse con le mie. Tu lo piangi con me, quell'angelo tutelare di cui sento ancora l'ultimo abbraccio, di cui vedo tuttora il nobile sguardo. Forse sei tu che gli hai scelta per consolarmi, forse. No, no, gridò Corinna. Non ha creduto che ne fossi degna. Che dite voi mai? Interruppe Osvaldo. Corinna temette di aver rivelato ciò che voleva nascondere e ripeté quel che le era scappato di bocca col dire solamente: Non me ne crederebbe degna. Questo cambiamento di parola dissipò l'inquietudine che la prima aveva fatto nascere nel cuore di Osvaldo ed egli continuò senza timore a discorrere di suo padre con Corinna. Frattanto giunsero i medici e la rincuorarono un poco, ma essi proibirono assolutamente a Lord Nelville di parlare finché il vaso che era aperto sul seno non si fosse chiuso. Scorsero 6 giorni interi durante i quali Corinna non lasciò Osvaldo e gli impedì di pronunciare una sola parola, imponendogli dolcemente silenzio tutte le volte che lui voleva parlare. Ella trovava l'arte di variare le ore con la lettura, con la musica, qualche volta con discorsi tutti a suo carico, cercando di ravvivarsi ella medesima con l'interesse uguale, tanto nel serio quanto nel divertente, nel divertimento. Tutta questa grazia, tutti questi vezzi velavano l'agitazione che la provava internamente e che bisognava nascondere a Lord Nelville. Ma ella non era distratta per un solo istante. Si avvedeva quasi, prima che se ne accorgesse Osvaldo medesimo, di quanto egli soffriva e il coraggio che mostrava per nasconderlo non ingannava mai Corinna. Ella scopriva sempre quel che poteva fargli bene e si dava tutto il pensiero di sollevarlo, col procurare soltanto di fissare la sua attenzione il meno possibile sulle cure che ella si prendeva di lui. Nonostante ciò, quando Osvaldo impallidiva, il colore corallino abbandonava pure le labbra di Corinna e le sue mani tremavano nel porgergli qualche soccorso, ma ella si sforzava ben presto di rimettersi e sorrideva, sebbene i suoi occhi fossero pieni di lacrime. Qualche volta ella accostava la mano di Osvaldo al suo cuore e pareva volergli dare in tal guisa la sua propria vita. Finalmente le sue cure ebbero felicissimo esito. Svaldo guarì. Corinna, le disse allorché ebbe da lei il permesso di parlare. Perché mai, signor Egermond, mio amico, non è egli stato testimonio dei giorni che avete passato in mia compagnia? Egli avrebbe veduto che voi siete ammirevole quanto buona. Egli avrebbe veduto che la vita domestica, grazie a voi, consiste in un continuo incanto e che voi non differite dalle altre donne se non per aggiungere a tutte le virtù di prestigio di tutti i vezzi. No. È abbastanza. Bisogna far cessare il combattimento che mi tormenta, il combattimento che mi ha spinto sull'orlo della tomba. Corinna, tu mi sentirai, tu saprai tutti i miei segreti, tu che mi nascondi i tuoi, e deciderai quindi della nostra sorte. La nostra sorte, riprese Corinna, se siete sensibile come me, è quella di non separarci. Ma mi crederete voi quando vi dirò che fino ad ora io non ho osato di desiderare di essere vostra sposa. Quello che io provo è tutto nuovo per me. Le mie idee sulla vita, i miei progetti sull'avvenire sono in disordine per il sentimento che mi turba e mi rende schiava ogni giorno di più, ma io non so se noi possiamo, se noi dobbiamo unirci. Corinna, riprese Osvaldo, mi disprezzereste voi forse perché ho esitato nella mia risoluzione? Attribuireste forse ciò ad abbiette considerazioni? Non avete voi rilevato che il rimorso profondo e doloroso che da 2 anni mi perseguita, mi strazia, ha potuto essere la sola cagione della mia perplessità? Io l'ho compreso benissimo, replicò Corinna. Se mi fosse venuto in sospetto un solo motivo estraneo alle affezioni del cuore, voi non sareste più colui che io amo. Ma la vita, io lo so, non appartiene tutta intera all'amore. Le abitudini, i ricordi, le circostanze creano intorno a noi un non so quale allacciamento che la passione medesima non può distruggere. Infranto per un istante, si formerebbe di nuovo e l'edera, avviticchiandosi, trionferebbe della quercia. Mio caro Osvaldo, non diamo a ciascuna epoca della nostra esistenza più di quello che questa epoca richiede. Ciò che mi è necessario attualmente è che voi non mi abbandoniate. Il terrore di una partenza che potrebbe essere subitanea mi insegue incessabilmente. Voi siete forestiero in questo paese, né vi trattiene qui alcun legame. Se voi partiste, tutto sarebbe svanito. Non mi rimarrebbe di voi che il mio dolore. Questa natura, le belle arti, la poesia che sento con voi e presentemente, ahimè, soltanto con voi, tutto in breve diverrebbe muto per la mia anima. Io mi risveglio sempre tremando, io non so, quando vedo il giorno sereno, se mi voglio ingannare coi suoi raggi risplendenti e se voi non avete ancora cambiato di luogo, voi che siete l'astro della mia vita. Osvaldo, toglietemi, vi prego, questo timore. Io non vedrò nient'altro al di là di questa sicurezza deliziosa. Voi sapete, rispose Osvaldo, che un inglese non ha rinunciato mai alla sua patria, che la guerra mi potrebbe richiamare, che... Ah, Dio! Gridò Corinna. Vorreste voi forse prepararmi? E tutte le sue membra tremavano, come all'avvicinarsi del più spaventevole rischio. Ebbene, se è così, conducetemi con voi, come sposa, come schiava. Ma tutto a un tratto, ripigliando spirito, ella disse a Osvaldo: voi non partirete mai senza prevenirmene, mai, non è vero? Sentite, in nessun paese un reo è condotto a supplizio senza che gli siano accordate alcune ore per pensare ai casi suoi. E non mi dovete prevenire con una lettera. Voi medesimo verrete a dirmelo, voi stesso mi avvertirete se ve ne andrete e mi ascolterete prima di allontanarvi da me, vero? E potrò io allora che voi esitate a concedermi quanto vi domando? No, rispose Osvaldo, io non esito. Tu lo vuoi, ebbene, io lo giuro. Se questa partenza è necessaria, io te ne informerò e quel momento deciderà della nostra vita. Sì, disse Corinna. Ne deciderà. Ed ella partì in quell'istante. Capitolo 2. In tutti i giorni susseguenti alla malattia di Osvaldo, Corinna evitò premurosamente tutto ciò che poteva motivare qualche spiegazione tra di loro. Ella voleva rendere dolce quanto le era possibile la vita del suo amico, ma non voleva confidargli ancora la sua storia. Tutto ciò che l'aveva rivelato nei loro abboccamenti l'aveva convinta del colpo che gli avrebbe fatto il sapere chi ella era e ciò che l'aveva sacrificato, e nessuna cosa le ispirava maggiore paura di questa sorpresa che poteva separarlo da lei. Ricorrendo dunque all'amabile destrezza che era solita porre in opera per impedire che Osvaldo si desse in preda alle sue agitazioni amorose, volle interessare di nuovo il suo spirito e la sua immaginazione con le meraviglie delle belle arti che non aveva ancora vedute, e ritardare in tale modo l'istante in cui doveva schiarirsi il destino e decidersi. Simile stato sarebbe insopportabile in ogni altro sentimento fuorché nell'amore, ma questi somministra così dolci ore, sparge tale incantesimo su ciascun minuto, che quantunque abbia bisogno di indefinito avvenire, si inebria del presente e valuta un giorno come un secolo di felicità o di pene, cotanto quel giorno è ripieno di affetti e di idee. Ah! Senza dubbio l'eternità può essere compresa per mezzo dell'amore. Esso confonde tutte le nozioni del tempo, cancella le idee del principio e della fine. Si crede di avere sempre amato l'oggetto che si ama, tanto è difficile il concepire che si sia potuto vivere senza di lui. Quanto più la separazione è terribile, tanto meno sembra verosimile. Essa diviene come la morte, un timore di cui si parla più di quel che si creda. Un avvenimento che pare impossibile anche quando si sa che è inevitabile. Corinna, tra i suoi innocenti stratagemmi per variare i passatempi di Osvaldo, aveva riservato ancora le statue e i quadri. Un giorno, dunque, allorché Lord Nelvil fu ristabilito in salute, gli propose di andare a vedere insieme ciò che la scultura e la pittura offrivano in Roma di più bello. Andarono di primo lancio al Museo Vaticano e quel palazzo di statue ove si vede la figura umana divinizzata dal paganesimo, come i sentimenti dell'anima lo sono adesso dal cristianesimo. Corinna fece osservare a Lord Nelvil quelle sale taciturne dove sono assemblate le immagini degli dei e degli eroi, dove la più perfetta bellezza, in una quiete eterna, sembra godere di se stessa. Usciti dal Vaticano, Corinna condusse Osvaldo dinanzi ai colossi di Montecavallo. Queste due statue si dice che rappresentino Castore e Polluce. Ciascuno dei due eroi doma con una mano un focoso destriero che si impenna. Quelle forme colossali, quella lotta dell'uomo con gli animali danno, come tutte le opere degli antichi, un'ammirevole idea della potenza fisica della natura umana, ma questa potenza ha qualche cosa di nobile che non si rinviene altrimenti nel nostro ordine sociale, in cui la maggior parte degli esercizi del corpo sono abbandonati alla classe del popolo. Corinna e Lord Nelvil terminarono la loro giornata con l'andare a vedere lo studio di Canova, del più grande scultore moderno. Siccome era tardi, così fu necessario ricorrere ai lumi per poterlo osservare, e le statue guadagnano assai in questa maniera di essere vedute. Gli antichi erano dello stesso parere, poiché le situano sovente nelle loro terme, nelle quali non poteva penetrare il giorno. Al lume delle candele, l'orma più gagliarda diminuisce la brillante uniformità del marmo e le statue compaiono con viso pallido che ha un carattere più interessante di grazia e vitalità. Vi era, nello studio, una statua meravigliosa destinata per un sepolcro. Essa rappresentava il genio del dolore, appoggiato a un leone, emblema della forza. Corinna, nel contemplare questo genio, credette di trovarvi qualche rassomiglianza con Osvaldo, e Canova medesimo ne rimase ugualmente colpito. Lord Nelvil si volse altrove per non attrarre l'altrui attenzione su tale proposito, ma egli disse alla sua amica: «Corinna, io ero condannato a questo eterno dolore quando vi ho incontrata, ma voi avete cambiato la mia vita». E qualche volta la speranza, e sempre un turbamento mescolato di attrattive, occupano questo cuore, che non doveva essere pieno che di afflizione.